Uyelele ma, uyelele ma, masia chavula tina. Uyelele ma, uyelele ma. Au ye. Uyelele ma, uyelele ma. Zimbabwe. Uyelele ma, uyelele ma. Au ye. Uyelele ma, uyelele ma. Zambia. Uyelele ma, uyelele ma. Au ye. Uyelele ma, uyelele ma. Malawi. Uyelele ma, uyelele ma. Au ye. Uyelele ma, uyelele ma. Mozambique. Uyelele ma, uyelele ma. Au ye. Uyelele ma, uyelele ma. Angola. Uyelele ma, uyelele ma. Au ye. Uyelele ma, uyelele ma. Botswana. Uyelele ma, uyelele ma. Au ye. Uyelele ma, uyelele ma. Lesotho. Uyelele ma, uyelele ma. Au ye. Uyelele ma, uyelele ma. Swaziland. Uyelele ma, uyelele ma. Au ye. Uyelele ma, uyelele ma. South Africa. Uyelele ma. Siya chabula tina, siya chabula tina, siya chabula tina, siya chabula tina. Wow Africa, wow Africa, wow Africa, wow Africa, wow Morocco, wow Somalia, wow Ghana. Helele mama, helele mama. Wo Nigeria, helele mama, helele mama. Wo Gambia, helele mama, helele mama. Wo Sierra Leone, helele mama, helele mama. Wo Kipite, helele mama, helele mama. Wo Africa, helele mama, helele mama. Siyajabula tina, helele mama, helele mama. Siyajabula tina, helele mama, helele mama. Siyajabula tina, helele mama, helele mama. Siyajabula tina, helele mama, helele mama. Wo Africa, helele mama, helele mama. Wo Africa. Helele mama, helele mama. Wo Zimbabwe. Helele mama, helele mama. Wo Zimbabwe. Helele mama, helele mama. Siyajabula tina. Helele, helele mama. Siyajabula tina. Helele mama, helele mama. Siyajabula tina. Helele, helele mama. Siyajabula tina. Helele mama, helele mama. Ciao a tutte e tutti e bentornati a Uru. State quindi ascoltando Radio Wombat come tutti i venerdì sera alle 21:30 appunto state ascoltando Uru. Questa è la puntata numero 81. La potete ascoltare in diretta il venerdì alle 21:30 o in replica la domenica alle 23 e lunedì mattina alle 8:30. Stasera parliamo di jazz. Ricordiamo appunto che il jazz in Africa ha due paesi principali in cui viene sviluppato e con una scena molto vivace, Etiopia e Sudafrica. Ma in questa puntata vogliamo parlare, fare ascoltare il jazz di altri paesi. Il jazz è diffuso in particolare, indipendentemente appunto da Sudafrica e Etiopia, nel Nord Africa e nella zona che guarda sul Golfo di Guinea. In questo caso, in particolar modo in Mali, il jazz è contaminato, o comunque è un jazz in cui si utilizzano anche gli strumenti locali, in particolar modo la cora. Ma iniziamo con un jazzista, Joy Kunnuchi, un jazzista nigeriano, e prendiamo spunto per darvi informazioni su di lui da una bella intervista ha dato a All Jazz Radio, che è una radio jazz, esclusivamente jazz, non a caso sudafricana, in particolar modo di Città del Capo. Su questo, al sito di All Jazz Radio potete ascoltare appunto la radio, ma anche tutta una serie di sezioni con notizie, programmazioni dei concerti e tutto ciò che attiene o che gira intorno al jazz in Sudafrica in particolare, ma anche in tutta l'Africa. E appunto in questa intervista Joe Kunnuchi parla un po' della sua vita, del suo approccio al jazz e come ci è arrivato, e non a caso anche lui sottolinea la grande influenza che ha avuto su di lui l'Afrobeat e in particolar modo Fela Kuti, tant'è che parla appunto dei suoi studi in sociologia del suo inizio suonando la batteria e del fatto che il fratello maggiore suonava con i figli di Fela Kuti, cioè Seun e Femi Kuti, e poi successivamente appunto Joku Nuji ha iniziato questo percorso jazzistico a cui si è particolarmente ispirato nella sua sperimentazione a jazzisti sudafricani. Ma un'altra cosa importante della sua intervista è che dichiara espressamente: I see myself contributing to preserve my people's music, cioè voglio proprio contribuire a preservare la musica del mio popolo. Questo perché appunto il suo jazz è proprio radicato nei suoni, nella cultura nigeriana. E vi facciamo ascoltare, ci sentiamo un pezzo di Joku Nuji che si intitola Fumi Lagbara. E questa è un'altra particolarità appunto di Joku Nuji, che nel momento in cui ci sono dei testi oppure dà i titoli ai propri pezzi musicali, sono appunto nella lingua del suo popolo, in questo caso una un'etnia che è particolarmente presente nel sud-ovest della Nigeria, l'etnia Ogu, in cui lui ha effettuato appunto tutte queste ricerche musicali e su cui appunto innesta la sua sensibilità musicale. Quindi Joku Nuji con Fumi Lagbara. È uscito un piccolo libro in questi giorni, un piccolo libro di Amilcar Cabral. A 45 anni dalla sua morte esce per la prima volta in italiano una raccolta di poesie del padre dell'indipendenza di Capoverde e Guinea-Bissau, morto nel 1973. Sono 20 componimenti dove naturalmente l'aspirazione alla libertà è il fil rouge di tutto il libro. Cabral, che fu uno straordinario uomo dal punto di vista politico ma anche culturale e dal punto di vista letterario, come si può vedere dai componimenti, naturalmente fu segnato, nel senso che una delle parti più importanti del suo pensiero era la negritudine. Questo libretto, con il testo originale portoghese a fronte, presenta dei testi introduttivi di Francesco Marracu e Marco Bucaloni. L'Italia, tra l'altro, è il paese del mondo che ha tradotto il maggior numero di opere di letteratura africana lusofona. Quindi è edito da Fefè Editore, sono 114 pagine a 10 euro e si intitola Rosa Negra, Amilcar Cabral, 20 poesie per un mondo migliore. E tutto il ricavato della vendita è destinato alla borsa di studio Amilcar Cabral per il sostegno agli studi universitari di giovani di origine capoverdiane residenti in Italia. E ne abbiamo accennato nell'introduzione, è un'altra area in cui è diffuso il jazz, è quella che dà sul Golfo di Guinea. In questo caso il Cora Jazz Trio a presente sono appunto è composto appunto da tre componenti: Gela Moussa Diawara alla voce, la chitarra e la cora, Abdoulaye Diabaté al piano, Moussa Cissoko alle percussioni. E Diabaté e Cissoko appunto provengono dal Senegal, mentre Diawara dal Mali, appunto. E questo è uno degli esempi di jazz suonato oltre con i tradizionali strumenti jazzistici anche con un tradizionale strumento della zona, e cioè in questo caso la cora. E tra l'altro il Cora Jazz Trio si è trasformato nel 2010 nella Cora Jazz Band, con l'uscita dell'album Cora Jazz Band e Guest, proprio perché appunto i tre membri sono diventati di più, e quindi appunto dal 2010 si chiama Cora Jazz Band. Cora Jazz Trio è stato fondato nel 2002 appunto da Gela Moussa Diawara, Guinean Korafola, con Abdoulaye Diabaté e Moussa Cissoko. E è una produzione musicale che unisce le tradizioni del jazz con la musica tradizionale africana, ed è stato spesso descritto come l'incontro tra la tradizione musicale mandinga e il jazz, tra le percussioni dell'Africa occidentale e lo swing afroamericano. E il Cora Jazz è stato riconosciuto anche per la sua attenzione a condividere il patrimonio culturale della regione, senza per questo farsi prendere, diciamo, dal gusto del mainstream. Nel 2018 è uscito un nuovo album, appunto in questo caso la Cora Jazz Band, si intitola Parte 4, che vede una nuova composizione, e quindi appunto questo progetto musicale va avanti nel tempo. Noi però vi facciamo ascoltare uno dei primi pezzi incisi dal Cora Jazz Trio, che si intitola Gianfa. E volevamo avvisarvi della prossima estate wombattiana che ci sarà durante il mese di luglio al CSA Nest Emerson. Si comincia il 3 con, appunto, per restare in tema anche con la nostra puntata di stasera, jazz, preceduto da la presentazione di un libro di Leonard Schaffer alla Barricadas sulla guerra di Spagna. Poi ci sarà il mercoledì 10, il venerdì 19, il mercoledì 14 e il mercoledì 31, tutte serate Wombat, quindi con i DJ, apriscena e musica. Vi aspettiamo nel giardino del CSA Nest Emerson di Via di Bellagio. Vi ricordo che siete appunto all'ascolto di Radio Wombat Uru, che potete ascoltare tutte le trasmissioni precedenti sul sito wombat.noblogs.org andando al menu podcast, ascoltarle o scaricarle e sentirvele successivamente, non solo di Uru ma di tutte le trasmissioni. Potete scrivere per comunicare con noi a posta wombat@insiberia.net, profilo Twitter è twitter.com/radiowombatfi, il profilo di Uru è uru-rw. Seguiteci tutte le trasmissioni e consultate spesso il palinsesto per le novità. È un bell'articolo di Africa is a Country sui matatu keniani. I matatu sono quei furgoncini che, con i quali in Kenya vai praticamente dappertutto, sempre strapieni, e sono utilizzati e vengono utilizzati sia in ambito urbano, Nairobi per esempio è un continuo sfrecciare di matatu, sia per distanze più lunghe tra le cittadine keniane. Sono coloratissimi, sono appunto sempre strapieni. Il consiglio è, specialmente sulle tratte lunghe, di sedersi, di stare sul tetto sopra e non dentro, e che fanno parte della cultura informale del paese. E il futuro dei matatu del Kenya e appunto il loro posto nella cultura e nella società della capitale Nairobi sono quasi del tutto assenti nella visione neoliberista del governo per la pianificazione urbana. Inizia così appunto l'articolo di Africa is a Country, è un articolo lungo che dividiamo in due parti. Gli scioperi contro i nuovi regolamenti, così continua l'articolo, e le riforme del settore matatu di Nairobi da parte della sua forza lavoro non sono nulla di nuovo e regolarmente portano la capitale del Kenya a un punto morto, cioè non si risolve o si risolve pochissimo. L'8 marzo scorso gli operatori dei minivan e degli autobus colorati hanno organizzato una processione per portare una petizione contro la loro esclusione dalle riunioni ufficiali del board e dell'autorità per i trasporti dell'area metropolitana di Nairobi. Tutto ciò appunto rispetto al futuro del trasporto urbano di Nairobi, e sostengono di essere lasciati fuori da importanti decisioni che influiscono sul loro impiego. Il matatu è servito come modalità principale di trasporto dei pendolari dal dominio coloniale in Kenya, e trasportano circa il 70% della popolazione urbana ogni giorno. Iniziative come Digital Matatu mettono in luce il loro ruolo centrale a Nairobi e il modo in cui sono diventati accessibili alla popolazione nonostante il loro status informale. E comunque, nonostante ciò, il governo tenta di eliminare gradualmente il matatu a 14 posti, e i recenti piani per introdurre un sistema di transito degli autobus, senza peraltro includere i lavoratori dei trasporti nelle decisioni. Tutto ciò rivela come i programmi di sviluppo nazionali rigettino le forme esistenti di trasporto informali e esacerbano l'incertezza per gli abitanti delle città che già vivono in condizioni precarie. Nel 2008 il presidente Kibaki ha introdotto Vision 2030 e Nairobi Metro 2030, due strategie volte a costruire, secondo lui, quindi un virgolettato, un paese globalmente competitivo e prospero, con un aumento della qualità della vita entro il 2030. Tutto ciò fa pensare il fatto che si sia dato mandato a una società di consulenza americana, la McKinsey, per strutturare questo piano. È evidente che ci sarà sempre più posto per una globalizzazione dell'economia e sempre meno posto per un'economia in piccola scala, diciamo a chilometri zero, gestita direttamente dagli abitanti e in questo caso anche dagli autisti dei Matatu, e non a caso propone sistemi standardizzati gestiti attraverso un partenariato pubblico-privato che molto probabilmente sarà quasi esclusivamente privato. E tra l'altro questo piano non prevede nessun assorbimento della forza lavoro che attualmente è utilizzata per far funzionare questa economia informale del Matatu. Questi piani, secondo Afriese County, aumentano l'incertezza sui mezzi di sostentamento piuttosto che riducendola. I rapporti di lavoro tra i proprietari di Matatu e gli operatori, cioè quelli che guidano i bigliettai e via dicendo, sono iniqui e sono uno sfruttamento per i lavoratori. Non ci sono contratti formali, la maggior parte degli operatori non ha una protezione legale e devono pagare tasse di utilizzo giornaliero elevate che a volte superano gli stessi profitti giornalieri. Questa relazione ineguale è stata messa in evidenza dai manifestanti in questa appunto iniziativa a marzo. E hanno osservato tra l'altro che i titolari dei Matatu, cioè i proprietari, sono stati inclusi negli incontri per decidere appunto questa nuova struttura dei trasporti della metropoli di Nairobi, ma nello stesso momento sono stati completamente esclusi i lavoratori, cioè quelli che i lavoratori dei Matatu. Quindi i lavoratori sostengono che aumenterà la disuguaglianza e le condizioni precarie di lavoro. E appunto il portavoce di Matatu ed ex autista Joseph Nderetu articola questa ansia, diciamo, questa visione precaria del futuro, chiedendo: quanti posti di lavoro andranno persi? Cosa verrà fatto per sostenere i poveri quando perdono il lavoro? Rimanendo in Kenya, passiamo ad una donna, Christine Kamau, una strumentista keniota, suona la tromba e il sassofono. Si è esibita in vari festival musicali keniani, appunto. Cresciuta a Nakuru, fin da piccola ha suonato e, incoraggiata dai suoi genitori, ha studiato teoria musicale e pianoforte classico fin dall'età di 11 anni. Ha continuato i suoi studi presso il Conservatorio Musicale del Kenya, dove poi ha ascoltato e si è innamorata della tromba, che infatti adesso suona nell'orchestra musicale del Conservatorio e nella sua band, che è African People. Specializzata in jazz africano, ascoltiamo dall'album This Is For You, un album in cui le sue composizioni combinano jazz con benga e rumba, e ci ascoltiamo di Christine Kamau, Conversation. E sempre in questo articolo sfumatato apparso in Africa the Country viene sottolineato anche il libro uscito pochi tempo fa, nel 2017, si intitola Matatu, l'autore Kenda Mutongio, in cui appunto viene ripercorsa la storia di questa economia, rivelando come Matatu è un mezzo di trasporto emerso nel periodo coloniale di Nairobi negli anni 50, ed è emerso, e questo appunto fa capire l'importanza da un punto di vista culturale, sociale, oltre che economico, in questo questa economia e questo mezzo di trasporto emerso appunto nella Nairobi coloniale degli anni 50 come risposta alle politiche razziste di esclusione e alla mancanza di trasporti per i pendolari neri. Quindi appunto i keniani che possiedono auto private hanno iniziato questo periodo a fornire il trasporto per i pendolari in cambio di una piccola tariffa, dando origine a questa economia informale. Poi successivamente il numero dei matatu è cresciuto significativamente dopo l'indipendenza del 1963, creando appunto questa rete informale e contribuendo alla crescita economica della nazione appena indipendente. Allineato con l'ideologia del libero mercato, attualmente l'economia dei matatu e i proprietari e gli operatori dei matatu scocciano varie strategie per battere la concorrenza, pubblicizzando i loro veicoli con caratteristiche particolari. Piuttosto che capitalizzare questo potenziale, come è stato fatto nel caso dei tassi in Sudafrica, l'omissione dei matatu dai piani nazionali per lo sviluppo suggerisce che il governo non riconosce il loro contributo all'economia keniota. Tra l'altro, contrariamente alla creazione di un'identità di città unica, come previsto appunto, come dovrebbe essere previsto in questi piani di sviluppo di Nairobi, questi piani finiscono in realtà per frammentare Nairobi, eliminando le connessioni e le identità create e sostenute dai matatu. Mentre i piani si concentrano principalmente sullo sviluppo infrastrutturale ed economico, sono anche un progetto di rappresentazione che disegna un'immagine specifica della futura Nairobi, e quindi è possibile che i matatu dipinti a spruzzo con caratteristiche speciali o come altoparlanti o schermi piatti, diventati famosi anche sotto coi nomi di Manianga, quelli gli schermi piatti, e che ricevono attenzione da parte del pubblico, è possibile che non siano più presenti nel panorama sociale della città. Tra l'altro, l'antropologa Mbua Vamangui fornisce un'analisi dettagliata della grafica e della moda dei matatu nel suo libro del 2013 Matatu Men, Portrait of a Subculture di Nairobi, sostenendo che la cultura dei matatu è diventata un veicolo chiave per comprendere la società keniota. E quindi, piuttosto che standardizzare o definire un tipo di nairobilità, in questo libro si sostiene che il matatu offre una molteplicità di esperienze attraverso la musica e la grafica, e quindi appunto la loro standardizzazione porterebbe a un impoverimento dell'aspetto sociale, oltre che chiaramente economico, della città. Passiamo adesso a uno dei più conosciuti strumentisti e musicisti maliani, Baba Sissoko Griot, polistrumentista, uno dei maggiori esponenti di musica jazz, da anni impegnato nella diffusione della tradizione musicale del Mali. Da tempo collabora con diversi musicisti che, a partire dall'approccio tradizionale del jazz, hanno spostato la loro ricerca riscoprendo le origini africane di tutta la musica nera, il blues, il jazz e il soul. Uno forse dei suoi progetti più importanti è la sua collaborazione con Famadou Domoye dell'Art Ensemble Chicago, in cui mescolano la madranna, cioè l'origine del blues secondo molti ricercatori, con le origini africane sia del jazz che del blues. Il culmine di questo mix ha dato origine a due album che si chiamano Bamako Chicago Express del 2002, che è un album fantastico, e Reunion del 2003, che vedono appunto Sissoko come membro speciale dei due album. L'attuale progetto musicale di Baba Sissoko passa per le sue produzioni Jekafo e Bamako Ja. Jekafo è la sintesi della collaborazione e dell'unione, Jekafo appunto in Bambara, tra Sissoko e alcuni tra i migliori musicisti maliani. In quest'album, pieno di rimandi tradizionali, il virtuosismo di Baba Sissoko con il suo Ngoni e l'inseparabile Tamani spiccano in brani come Masaya e Mamayo. Quindi proprio su questo progetto Jekafo di Baba Sissoko ci ascoltiamo Danaya. Thank you. E per giugno, il mese del Pride, una notizia arriva da Botswana. La Corte Suprema del Botswana ha dichiarato illegittime due sezioni del codice penale che criminalizzavano l'omosessualità. Le sezioni sono appunto la 164 e la 167. La prima dice che ogni conoscenza carnale con un'altra persona contro l'ordine della natura è punibile con 7 anni di carcere, mentre la seconda prevedeva fino a 2 anni di reclusione per atti indecenti in luogo pubblico. A fare ricorso alla Corte Suprema era stato a marzo scorso l'Esuelezeve Mosiamang, uno studente 21enne omosessuale che sosteneva appunto le due sezioni del codice penale rappresentavano una violazione dei diritti fondamentali e della libertà d'espressione. E appunto la Corte Suprema del Botswana si è pronunciata a favore della richiesta di l'Esuelezeve Mosiamang. E tra l'altro c'è da considerare che la decisione della Corte Suprema del Botswana arriva a poche settimane da quella opposta dell'omologa Corte del Kenya, che ha deciso che una legge risalente all'epoca coloniale che criminalizza le relazioni omosessuali debba rimanere in vigore. Quindi una contraddittorietà in due paesi diversi del continente africano, una negativa appunto quella in Kenya, una positiva quella in Botswana. Passiamo adesso ad un musicista e cantante tunisino, Dafer Youssef, il cui nome completo è Dafer bin Youssef bin Tarar Maref, nato a Tebulba in Tunisia. Ha vissuto e lavorato in diversi paesi europei, dove ha avuto occasione di suonare sul palco in diversi paesi, però è in Tunisia dove ha cominciato a cantare fin dall'età di 5 anni e dove le radici della sua musica affondano nella tradizione sufi e nella musica mistica. E tra l'altro sentiremo anche bene nella canzone che andremo a sentire, e lui suona anche l'oud, il liuto arabo, dal quale riesce a trarre composizioni complesse improntate alla tradizione araba. Di lui ci ascoltiamo un pezzo che si chiama Soupir Eternel. Quindi sentiamo proprio il tipico canto sufi accompagnato in questo caso dall'oud, e in questo pezzo appunto sentiamo anche che lui è accompagnato da un clarinetto. Quindi da Fer Youssef, Soupir Eternel. Oh, sempre Radio Wombat, sempre Uru, il venerdì alle 21.30, replica la domenica alle 23, il lunedì alle 8.30 la mattina, Twitter, Radio Wombat Fi, c'è un Twitter di Uru che non riguarda solo la trasmissione ma anche le notizie dal continente africano, Uru-RW, sarebbe Radio Wombat, la posta di Radio Wombat, posta Wombat chiocciola in Siberia .net, e poi chiaramente il sito della radio, in cui appunto nelle diverse pagine è possibile ascoltare e riascoltare tutte le trasmissioni di Radio Wombat, alla pagina podcast, la pagina col palinsesto, la pagina che dà una descrizione delle rubriche della radio. Ricordiamo anche, oltre in streaming, che Radio Wombat si può ascoltare sulle frequenze AM 1359. Li abbiamo già ascoltati nell'ultima trasmissione, quando abbiamo fatto appunto la trasmissione sulla musica delle primavere arabe. Visto che sono appunto, parliamo di jazz, ci piaceva riascoltarli, sono i Jazz Oil, li sentiamo naturalmente con un altro pezzo, quindi ce li ascoltiamo, Jazz Oil, Lila Funk. Thank you. E questo era l'ultimo pezzo della trasmissione di stasera. Vi aspettiamo le prossime volte. Ciao a tutte e tutti, mi raccomando, ascoltate sempre Radio Wombat. Ciao ciao. Ciao ciao. Sia chabula tina, sia chabula tina, sia chabula tina, sia chabula tina, whoa Ethiopia, whoa Uganda, whoa Kenya, whoa Tanzania, whoa Ghana, whoa Nigeria, sia chabula tina, sia chabula tina. Hele mama, hele mama, hele mama, hele mama, hele mama.